Canto 32 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 32. Tanto eran gli occhi miei fissi ed attenti a disbramarsi la decenne sete, che gli altri sensi m'eran tutti spenti, ed essi, quinci e quindi, aven parete di non caler. Così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, perch'io udia da loro un troppo fiso, e la disposizion ch'a veder è negli occhi pur testé dal sol percossi, senza la vista alquanto essermi fee. Ma poiché al poco il viso riformossi, io dico al poco, per rispetto al molto sensibile onde a forza mi rimossi, vidi in sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto, come sotto gli scudi, per salvarsi volge si schiera, e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno, che precedeva tutta trapassonne, pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle ruote si tornar le donne, e il grifon mosse il benedetto carco, sì che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, Estazio ed io seguitavamo la ruota che fe l'orbita sua con minore arco. Sì, passeggiando l'alta selva vota, colpa di quella che al serpente crese, temprava i passi un'angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta, quanto eramo rimessi quando Beatrice scese. Io sentii mormorare a tutti, Adamo, poi cerchiare una pianta dispogliata di fiori ed altra fronda in ciascun ramo. La chioma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dagli indi nei boschi lor per altezza ammirata. Beato sei, Grifon, che non discendi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torse il ventre quindi. Così, dintorno all'albore robusto, gridarono gli altri, e l'animal binato. Sì, si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo che gli avea tirato, trassero al piede la vedova frasca, e quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce, mischiata con quella che raggia dietro la celeste lasca, turgide fansi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga li suoi corsier sott'altra stella, men che di rose e più che di viole colore aprendo, s'innovò la pianta che prima avea le ramore a sì sole. Io non lo intesi, né quaggiù si canta l'inno che quella gente allor cantaro, nella nota soffersi tutta quanta. S'io potessi ritrar come a sonnaro gli occhi spietati udendo di siringa gli occhi a cui più vegghiar costò sì caro, come pintor che con esemplo pinga disegnerei com'io m'addormentai, ma qual vuol sia che la sonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai e dico con splendor mi squarciò il velo del sonno ed un chiamar, surgi, che fai? Quale, a veder de fioretti del melo, che del suo pomo gli angeli faghiotti,